Roma Trastevere, 23 gennaio 1974. Care Leuterio, la casa che vide due virgulti, mia sorellina e io, scambiarsi giochi e le cornie, oggi vede due donne scambiarsi parole di conforto. La nostra ultima lite, Leuterio, ha fatto subire una flessione alla mia stima per te. E l'ha fatta subire anche a mia sorellina, che gira per casa cantando «Morte, morte al nemico invasor», che saresti tu. Io pianto tanto, Leuterio, che mia sorella si è commossa e mi ha regalato una nuova serie di ciglia finte. E io penso che le ciglia finte non sono altro che il tupè delle palpebre. Penso anche che sei un cretinetto shocking. Non si contrasta la riforma burocratica interna, sempre tua. Roma Parioli, 24 gennaio 1974. Inconcepibile sempre mia. Non mi tornano i conti. Dici che la casa da dove mi scrivi oggi vede due donne che si scambiano eccetera eccetera. Considerando te in uno slancio di bontà una delle donne, l'altra chi è? Non mi dire che ti riferisci a quella specie di giara che la natura ha voluto scherzosamente fornire di arti e di voce baritonale e che tu chiami sorellina. La riforma burocratica interna non è attuabile perché io voto contro. Eleuterio. Poi scritto, il bambino della portinaia mi ha chiesto che cos'è una calamità. Mandami una fotografia di tua sorella. Roma Trastevere, 25 gennaio 1974. Care Leuterio, cut. L'ho scritto in inglese non per ingentilire la bestia, ma per renderlo il più estraneo possibile. Mia sorella ha guardato sull'enciclopedia cos'era una giara e pur riconoscendo onestamente che una certa rassomiglianza con lei c'è, si è un po' arrabbiata, ma senza darlo a vedere. Si è limitata a sollevare con le braccia la grande cristalliera a tre ante del salotto. Dice che può fare la stessa cosa con te usando soltanto il pollice e l'indice della mano sinistra. C'è la luna, un quarto di luna, Leuterio. E io penso che un quarto di luna non è altro che la luce di posizione del cielo che non vuole essere confuso col mare. Penso anche che la riforma burocratica interna vada attuata sistematicamente, sempre tua. Roma Parioli, 26 gennaio 1974. Inevitabile sempre mia. La solitudine comincia a pesarmi. Mi sento una nullità. Quando invece tu sei qui e io ti sento parlare, tutto torna a posto e mi ritrovo alla pari con Leonardo da Vinci e Benedetto Croce. Torna. Anche perché credo che il gatto sia molto malato. Ieri ha rifiutato il contenuto della scatoletta e oggi non ha nemmeno assaggiato il pesce, Eleuterio. Ho scritto, la portinaia ha svelato il mistero del gatto. Dice che i gatti non mangiano spinaci e che il pesce deve essere prima scongelato. Roma Parioli, 27 gennaio 1974. Care Eleuterio, micione... Sono di nuovo nella nostra casa che io tengo in ordine perché tu possa metterla in disordine. Le tazzine da caffè, anche se usate, non si mettono nella pattumiera, Leuterio. Sono i bicchieri di carta usati che vanno nella pattumiera e che invece ho trovato nella lavastoviglie. E io penso che la lavastoviglie è quella meravigliosa, perfetta macchina che riesce a fare in tre ore quello che una qualsiasi massaia potrebbe fare in mezz'ora. Penso anche alla nostra ultima lite della quale ricordo tutti i particolari. Io ero in casa e tu no. E quando sei rientrato mi hai subito aggredita. Medico, siamo impazziti. Si può sapere perché c'è la porta di casa aperta? Per snellire il traffico, Leuterio. In questa casa c'è troppa burocrazia. Ma che accidente dici? Che c'entra la burocrazia con la porta di casa? Leuterio, la porta di casa è una faccenda medioevale. Una specie di ponte levatoio che invece che aprirsi per in giù si apre per di là. Uno che deve entrare suona e chi è dentro deve andare ad aprire. E allora? Tutto questo è burocratico, Leuterio. E così abbiamo attuato la riforma, mia sorellina e io. Ah sì? E così la porta di casa, per snellire il traffico, resta aperta. E se qualcuno entra nel mio studio, si porta via qualche cosa. Qualche cosa che, Eleuterio? Ma qualche cosa, che ne so, i soldi, i quadri. Attuando la riforma burocratica, abbiamo snellito anche la circolazione monetaria e le belle arti. I soldi sono sul tavolo di cucina e i quadri tutti nel tinello. I soldi sul tavolo di cucina? Sì, Eleuterio, non è possibile che ogni volta che mi servono soldi devo venire da te, fare domanda, aspettare lo stanziamento e ascoltare le prediche. Così li prendo e via. E i quadri perché starebbero nel tinello? Per semplificare, che senso hanno i quadri messi qua e là per la casa? Per vederli tutti si perde mezz'ora, invece nel tinello li guardi tutti in una volta. Anche mia sorellina è d'accordo. Non mi parlare di tua sorella, se non fossi iscritta alla protezione animali la strangolerei. Non incominciamo con mia sorella Eleuterio, oltretutto ha lavorato tutta la mattina per te. Ah sì, e che ha fatto? Solo per il giornale ci sono volute 2 ore. Che giornale? Il tuo, siccome leggi solo i titoli, gli oroscopi e gli annunci funebri te li abbiamo ritagliati e messi sulla scrivania. Il resto del giornale che non serve lo abbiamo buttato. Ah, è brava. Allora adesso per semplificarmi ancora di più la vita, chiami quella zampogna di tua sorella. Mia sorella non è una zampogna. Lo dici tu, fallo venire qua, io la sbuco e vediamo se si sgonfia. Fai venire qui tua sorella e rimettete tutti in ordine, perché sennò io... Sennò che cosa, Eleuterio? Eleuterio, metti giù quel tavolo fratino. Certo che lo metto giù, ma voglio essere sicuro che tu ci capiti sotto. Eleuterio, posa quel tavolo, io me ne vado da mia sorella. Vieni qua, non scappare. Dammi una possibilità di vedovanza. Ricordo tutto perfettamente. Ma quando rientrerai, come è mia abitudine, farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio, caro. Mi ha telefonato mia sorellina, dice che sarebbe giusto ridimensionare le tue spese personali e così abbiamo deciso di congiunturare quanto prima il tuo... Oh,